Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Da un lato chiaramente il via libera all'accordo anche tra il anche con le banche, quindi ci riferiamo alla vicenda Fiat Chrysler. Il tesoro americano avrebbe raggiunto un accordo con i creditori di Chrysler, in primo luogo le banche, per ristrutturare il debito, e quindi John Elkann, il presidente, ha detto attenzione al termine dell'assemblea degli azionisti Exor. Il presidente John Elkann ha detto: beh, giovedì sera si chiude con Chrysler. Nella notte, ricordiamo già la conferma ufficiale dell'accordo con dei sindacati, e poi le indiscrezioni che sono trapelate, tutte confermate. Il Lingotto avrebbe il 35%, il sindacato il 55%. Ne parleremo tra brevissimo, perché vi volevo raccontare gli altri temi e anticipare gli altri temi che abbiamo in questa puntata. Parleremo del dato di oggi sulle esportazioni e anche sui consumi, perché sulle esportazioni qualcosa si muove in senso positivo, mentre sui consumi interni, mi riferisco sempre all'Italia, i dati sono ancora pesantemente in calo. Nel commercio fuori dall'Europa, quello che si chiama extra UE, c'è il primo saldo positivo dal 2006. A marzo, poca roba ma significativa, 176 milioni. Tra l'altro il primo saldo positivo dal dicembre 2006, ma per il terzo mese consecutivo il saldo è ottenuto dal rallentamento sia di importazioni che di esportazioni. È che le importazioni sono rallentate più delle importazioni. Ma diciamo le vendite al dettaglio, ne parleremo con Marco Fortis, che appunto ieri ha presentato il suo libro La crisi mondiale d'Italia, abbiamo già dato qualche anticipazione. Poi tratteremo il tema, purtroppo dobbiamo tornarci, dell'influenza suina. Ieri speravamo, e l'abbiamo detto, di non parlarne finché non vi fossero delle ricadute economiche, iniziano i primi scricchioli. Nonostante si sia provato anche noi a spiegare in tutti i modi che il contagio è solo per via umana, che assomiglia in tutto e per tutto al contagio di carattere influenzale, e quindi sappiamo tutti che l'influenza uno non se lo prende mangiando certi cibi. Però gli agricoltori denunciano preoccupazioni e tensioni proprio nella produzione italiana di suini, che è una produzione importantissima. E devo dire che forse è anche un po' controproducente, lo dico alle varie associazioni di agricoltori, mandare comunicati che ricordano come l'Italia non importi carne suina, né surgelata, né maiali vivi dal Messico da oltre 10 anni, perché sembra quasi indirettamente avvalorare l'ipotesi che la carne possa essere un elemento di un veicolo del contagio. Non è così, quindi è anche inutile ricordare che noi non importiamo carne di maiale dal Messico. Poi parleremo invece della maxi truffa ai danni del Comune di Milano. 100 milioni già sono il danno della la montata della truffa, però sono scattati anche gli avvisi di garanzia, e ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa rapidamente assieme agli altri titoli. Le borse restano deboli anche se non sono sui minimi della seduta. Parigi meno 1, Francoforte meno 1,3 e Londra un punto e mezzo percentuale di calo, la peggiore oggi Londra. L'America guadagna lo 0,1 sul Dow Jones e il mezzo punto percentuale di rialzo sul Nasdaq. Milano sta perdendo l'1% sul Mibtel, l'1,3% sull'S&P MIB. Tiene, anzi va bene, Eni più 2,3, Geox più 0,80 come UbiBanca, e mezzo punto percentuale di rialzo anche per la Popolare di Milano. Il calo più significativo invece ce l'ha ST Microelectronics, meno 4,20, Bulgari meno 4, Ansaldo CTS meno 3,4 come Snam, Mondadori perde il 3 come Tenaris, Pirelli e Telecom Italia. Intesa perde il 2,80%. Fiat perde il 2% e scende sotto quota 8 euro per azione a 7,90 euro. Allora approfittiamone per parlare delle notizie arrivate dall'America, di nuovo con Mario Platero, di nuovo nostro ospite oggi in studio, lo ricordo, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Buonasera Mario. Buonasera, buonasera a voi. Washington Post di un'ora fa, accordo fatto tesoro creditori, come tu anticipavi ieri, era l'ultimo tassello, diciamo, del triangolo, anzi del quadrato. Da un lato la Fiat, dall'altro la Chrysler, poi ci sono i sindacati e poi c'erano le banche. Ecco, dovrebbe essere a questo punto chiuso anche la parte con i creditori, che poi significa in primo luogo banche. E nella notte era uscita anche, erano uscito tutto un insieme di indiscrezioni sulla caratteristica di questa intesa. Fermo restando che finché non la leggiamo non è definitiva, che configurazione ha preso l'ingresso di Fiat in Chrysler? Beh, intanto la Fiat a questo punto dovrebbe essersi garantita, ricordiamolo, come dicevi tu stesso, un accordo quadrangolare, ci sono le banche, ci sono i sindacati in una, devo dire, straordinaria dimostrazione di flessibilità e con una certa visione hanno accettato di rinunciare a una serie di diritti monetari che avevano e di convertire questi diritti in azioni. Avranno il pacchetto azionario di Chrysler, avranno il 55% di questo pacchetto azionario, la Fiat potrà arrivare al 35%. Ci saranno poi una serie di clausole che, guardando in avanti, potranno modificare questi equilibri, ma quel che conta di più è che finalmente sembra, come dicevi tu, si sia raggiunto questo accordo con le banche di cui parlavamo ieri. A me sembrava impossibile che, visto che ormai la differenza si era ridotta a poche centinaia di milioni di dollari, non si riuscisse poi a fare questo passo in avanti ulteriore. Bene, e sembra che alla fine l'accordo si sia trovato su un paio di miliardi di dollari di rimborso del debito su 6,9 miliardi. Di dollari che le banche avevano in esposizione nei confronti della Chrysler, e poi un pacchetto azionario che potrebbe aggirarsi fra il 5 e il 10%. Quindi anche questa parte del cerchio si è chiusa, e in qualche modo, come dicevi, dovremmo a questo punto avere le conferme ufficiali con i dettagli precisi, ma se tutto andrà bene le cose andranno avanti e Fiat diventerà azionista di Chrysler e Marchionne probabilmente l'uomo guida di questo nuovo gruppo. Chi l'avrebbe mai detto? Da quello che si è capito, Mario Platero, Fiat non dovrà sborsare soldi in contanti, cioè resta l'ipotesi di fornire componentistica, oppure quello che tu ricordavi ieri, cioè il tira e molla soprattutto con alcune banche americane perché anche Fiat mettesse del capitale, è andato in quella direzione? No, chiedevano un miliardo di dollari, poi hanno rinunciato a questa richiesta, anche perché la Fiat obiettivamente non aveva nessun interesse, nessuna esposizione nei confronti di questa partita diretta. La Fiat si proponeva come, fra virgolette, eroe bianco, cavaliere bianco, quello che semmai contribuiva a risolvere la situazione e a poter costruire una Chrysler che, guardando in avanti, avrebbe avuto una piattaforma molto solida. Quindi la Fiat contribuirà con le sue piattaforme tecnologiche, 4 che riguardano le catene di montaggio di certi modelli, 2 che riguardano i motori. Questa tecnologia la Chrysler non l'aveva, contribuirà con sbocchi di mercato tutto il Sud America che la Chrysler non aveva, e non solo, ma potrà sollevare da certe responsabilità la Chrysler con un impianto a Windsor in Canada che ci risulta sarà quell'impianto a essere trasformato nella nuova catena di montaggio per l'Alfa Romeo, e quindi diventerà una catena Fiat, e lì, ecco lì, ovviamente la Fiat probabilmente investirà qualche cosa. Eh sì, perché quell'impianto della Chrysler verrà, da quello che abbiamo capito, trasformato in impianto dell'Alfa Romeo per produrre direttamente negli Stati Uniti, invece poi 4 modelli e 2 motori negli impianti della Chrysler in America. Poi avremo modo, appena giovedì sera, se, come ha detto John Elkann, arriverà la firma definitiva, di analizzare anche le prospettive industriali. Ripartiamo con le altre notizie. Vi aggiorno semplicemente sul fatto che il fronte Opel invece vede, secondo il ministro dell'economia tedesco Gutenberg, giudicare l'operazione Magna interessante, il piano Magna interessante, il gruppo austriaco-canadese, mentre Daimler ha avuto un forte calo nei risultati, perdite per 1 miliardo e 290 milioni di euro per il gruppo tedesco Daimler, contro utili di 1 miliardo e 330 milioni nei primi 3 mesi del 2008, con perdite quasi doppie rispetto alle stime per chi produce la Mercedes, e Daimler stima anche un calo significativo dei ricavi nel 2009, Non vanno meglio le cose in Giappone per l'Honda, meno 77% l'utile netto, meno 17% le vendite del gruppo Honda. Ancora, e qui volevo utilizzare in maniera impropria Mario Platero, la notizia più positiva che abbiamo oggi, tra quelle in breve, riguarda la fiducia dei consumatori americani. Ad aprile è balzata al 39,2 punti contro i 26,9 del mese prima. Tutte le stime parlavano di al massimo 29 punti. Ora è chiaro che una fiducia dei consumatori non fa primavera, però il dato è significativo. Da quello che tu vedi, vivendoci oltre che lavorandoci negli Stati Uniti, qualcosa si sta muovendo nella fiducia dei consumatori americani, perché quello è fondamentale per capire quando si potrà dare o dire che c'è un punto di svolta. Ma direi che quando i consumatori americani, come hanno visto nelle ultime settimane, verificano che il settore bancario si sta stabilizzando, che alcune banche tornano a fare profitti, verificano che la situazione economica, per parole dello stesso Barack Obama, comincia a avere questo barlume di speranza, di stabilizzazione, e verificano che la borsa tutto sommato sta rispondendo, perché abbiamo visto un rally, pur sempre un rally dell'orso, ma un rally che è andato abbastanza bene. Ecco, sono questi tre indicatori importanti su tre fronti che invece fino a pochi mesi fa presentavano soltanto un baratro oscuro. L'economia sembrava precipitare sempre più in basso, le banche addirittura non riuscivano ad avere un mercato del credito, e per quel che riguardava la borsa, beh, meglio non pensarci quando siamo arrivati addirittura di quota 6.000. Ecco, tutto questo sembra appartenere al passato, speriamo che sia così, speriamo soprattutto che quella copertina dell'Economist, che forse tu stesso avrai visto, in cui si vedono questi pesciolini così dall'aria innocente che vanno verso la luce che rappresenta il barlume di speranza di Obama, e poi dietro nell'oscurità c'è una specie di enorme pescione con i denti pronti a ingoiarli, speriamo che quella copertina non sia vera. E abbia peccato in pessimismo. Grazie Mario Platero. Grazie a voi. Noi partiamo proprio da questo spunto con il primo tema della trasmissione, quindi come stanno andando i dati, che si chiamano in generale congiunturali, qui del mese su mese, in Italia e in Europa, ma soprattutto in Italia, fiducia delle imprese italiane e anche con vendita al dettaglio, soprattutto poi il nostro export. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, i dati, dicevamo, italiani. Fiducia in recupero anche per le imprese del nostro paese. Lo ha rilevato oggi l'ISAE, da 60 punti a 64 punti. Siamo sopra i valori dello scorso febbraio, siamo ancora bassi, ci mancherebbe. Ma sopra i valori dello scorso febbraio si è fermata perlomeno la discesa continua. Nel giorno in cui, tra l'altro, sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il decreto che introduce l'IVA di cassa, cioè l'IVA non, le piccole imprese e gli autonomi non la pagheranno più quando viene staccata la fattura dell'operazione, ma quando viene effettivamente realizzato l'incasso, e nel giorno in cui purtroppo le vendite al dettaglio a febbraio fanno un meno 3% rispetto a febbraio 2008, ma anche un meno 0,7% rispetto a gennaio, per cui i consumi restano deboli, ne parleremo più avanti. Dato positivo, dicevamo, dal commercio con l'estero come bilancia, perché l'export è calato del 15%, ma le importazioni sono calate ben di più, del 23%, e poi l'export italiano comunque su base annua, quindi marzo 2009 rispetto a marzo 2008, è in crescita in Cina più 18%, nei paesi OPEC più 12%, e invece per il resto Turchia meno 40%, Russia meno 27%, America meno 22%, Giappone meno 16%. Ne parliamo con chi ieri ha presentato, assieme presenti il ministro Tremonti, l'onorevole Letta, il libro La crisi mondiale e l'Italia, casa editrice Il Mulino, ossia Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison e docente di economia industriale alla Cattolica di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. Entriamo nel vivo del suo testo, del suo libro. Lei è già stato nostro ospite altre volte, io lo ricordo spesso, lei conosce da dentro in maniera molto precisa le vere cifre delle nostre esportazioni, delle nostre importazioni. Da sempre ha un approccio cautamente ottimista, diciamo, nei confronti di questa crisi per quello che riguarda il ruolo dell'Italia, e lei infine è anche l'inventore delle cosiddette 4A, ossia le quattro colonne portanti del nostro export, e mi riferisco all'abbigliamento moda, all'arredo casa, all'automazione meccanica e all'alimentare vino. Professor Fortis, veniamo da una settimana, la scorsa, in cui il Fondo Monetario ci ha ricordato che questa crisi costerà 4.000 miliardi di dollari di svalutazioni, che il PIL per la prima volta dal 45 calerà dell'1,3%, che il PIL italiano calerà del 4,4%, dovrebbe calare anche nel 2010. Eppure, se ho ben letto il suo libro, lei nella crisi mondiale d'Italia traccia un paese, l'Italia, che tutto sommato, pur con la crisi c'è per tutti, ma in questa crisi non è tra i peggiori. L'Italia è arrivata a questa crisi in una situazione abbastanza diversa da molti degli altri paesi avanzati, perché da una parte abbiamo avuto i paesi che più hanno spinto sui debiti per crescere in questi ultimi anni, soprattutto sui debiti delle famiglie, la bolla immobiliare americana, ma anche irlandese, inglese, spagnola, ha portato questi paesi a crescere molto negli ultimi anni, ma era una crescita costruita in gran parte sulla sabbia. Quando poi si è visto che era insostenibile il modello di crescita che è stato adottato, abbiamo avuto una crisi grandissima con ripercussioni finanziarie e economiche a livello mondiale, che tra l'altro sono una responsabilità di questi paesi. Al contrario, l'Italia cresceva poco, così come la Germania, ma ha avuto un profilo di sviluppo molto più equilibrato. Il debito pubblico era molto alto, è tuttora molto alto, e ci ha impedito di fare ulteriori spese esagerate a livello di pubblica amministrazione, mentre le famiglie hanno consumato quel che potevano consumare senza farsi, diciamo così, attrarre dal miraggio di spese funamboliche come è avvenuto per esempio in America, ma anche in Inghilterra. Quindi lei dice: noi, avendo mantenuto una struttura manifatturiera, che poi vuol dire le industrie, come la Germania, chiaramente le nostre industrie, come quelle tedesche, cambiano le dimensioni. Noi abbiamo industrie più piccole e medie, la Germania ha più grandi colossi industriali, ma sono moltissimo vocate all'export, ma avendo mantenuto questa struttura risentiamo meno di una crisi che ha colpito in primo luogo la parte finanziaria e i servizi. Le chiedo, tra l'altro lei cita anche il fatto che nel 2006 il capo economista di Goldman Sachs prevedeva la fine del nostro manifatturiero, invece noi continuiamo a avere un surplus che, pensate, nel luglio del 2008, un anno fa, prima che la crisi entrasse nella parte più brutta, valeva quasi 62 miliardi di euro solo nelle 4A. Per inciso, le 4A come si stanno comportando in questi mesi? Ma diciamo che il fatto di essere un paese con una forte radice nell'economia reale non ci mette certamente al riparo dalle conseguenze della crisi, che come abbiamo visto ha colpito prima diciamo i paesi più orientati alla finanza e alle costruzioni, ma poi si è ha trovato sempre crescente peso anche nei paesi più manifatturieri. Il Giappone ha avuto un export in netta decelerazione, c'è stato un vero e proprio crollo negli ultimi due mesi, la Germania anche è stata colpita pesantemente, l'Italia essa stessa non può non risentire degli effetti di questa crisi. Tuttavia abbiamo un sistema manifatturiero che è molto competitivo, che sta facendo sforzi tremendi per sopravvivere in questi primi mesi del 2009, in cui gli ordini sono caduti anche per un effetto di destoccaggio formidabile a tutti i livelli della filiera distributiva commerciale a livello mondiale. Ecco, destoccaggio vuol dire che si sono svuotati i magazzini, quindi non si sono ordinate i beni, questo? Esattamente, si sono svuotati i magazzini da una parte per avere un capitale circolante ridotto all'osso, e poi anche perché ovviamente con il credit crunch le imprese sono state molto prudenti, ma lo sono stati anche i commercianti e lo sono stati anche i consumatori, che aprendo i loro stessi armadi hanno potuto riscontrare di avere troppe scorte anche di indumenti, abiti e quant'altro, oltre che naturalmente aprendo i loro garage anche di automobili. In questa situazione l'Italia soffre come gli altri paesi, però sta cercando, direi con una grande capacità da parte soprattutto del sistema delle piccole e medie imprese, di tenere botta, e io confido che il nostro sistema riuscirà a resistere meglio degli altri, anche perché dispone di un sistema di ammortizzatori sociali molto valido, che sta impedendo quella fuoriuscita occupazionale drammatica che osserviamo invece negli Stati Uniti. Ricordo che da quando è iniziata la crisi gli Stati Uniti hanno perso più di 5 milioni di posti di lavoro e si stanno avvicinando ai 6 milioni di posti di lavoro persi. Andiamo avanti, perché a noi fa sicuramente piacere sapere e capire che ogni tanto, quando si diceva fare manifatturiero, la fabbrica è vecchia, bisogna fare servizi, solo servizi, finanziarizzazione dell'economia, adesso scopriamo che invece meno male che ci siamo tenuti le fabbriche e i manufatti. Però qualche problemuccio ce l'abbiamo anche noi. Lei, oltre alle 4A, appunto, pilastri del Made in Italy, ha individuato, quanto a problemi invece strutturali, le 4D. Me le può ricordare e che limiti pongono alla nostra capacità poi di reggere la crisi, di uscirne anche, non dico rafforzati, ma di uscirne bene? Certo, accanto alle 4A, che sono i punti di forza della nostra economia, ci sono le 4D, che sono invece i punti di debolezza del nostro sistema. Le 4D sono essenzialmente innanzitutto il debito pubblico, che è un problema che ci portiamo ormai dietro da tanti anni, un problema di difficile soluzione perché le dimensioni del debito sono enormi e che comporta tra l'altro una dura bolletta annuale da pagare. Sono gli interessi che si pagano sul debito pubblico, che sono intorno ai 70 miliardi di euro, una cifra non indifferente che gli altri paesi non hanno nelle stesse dimensioni, che sottrae risorse alla nostra crescita. Poi c'è il deficit energetico infrastrutturale, altro problema gigantesco che soprattutto nel 2007-2008 ha picchiato duro sulla nostra bilancia commerciale. Nel 2009 paradossalmente avremo un miglioramento proprio a seguito del rallentamento dell'economia mondiale, del calo del prezzo del petrolio. Abbiamo poi il problema legato al divario territoriale e socio-economico tra il nord e il sud Italia, che si è ampliato enormemente negli ultimi anni, al punto che praticamente il nord-centro Italia, che è un'area che ha circa 40 milioni di abitanti, è l'area più ricca d'Europa a livello di parità di potere d'acquisto del PIL pro capite, mentre se prendiamo il sud Italia, che è un'area enorme con 20 milioni di abitanti, quindi è un'area che ha una popolazione doppia di quella della Grecia e del Portogallo, lì abbiamo redditi pro capite a parità di potere d'acquisto inferiori a quelle del Portogallo. Questo è un grosso problema che l'Italia non riesce a superare, no, e che frena, no, la nostra crescita. Infine c'è il divario anche diciamo così fiscale della tassazione con gli altri paesi. Abbiamo una tassazione relativamente alta, anche se inferiore a quella dei paesi nordici, cioè della Francia, ma non abbiamo gli stessi servizi ovviamente che la pubblica amministrazione offre nella Scandinavia piuttosto che in Francia. Professor Fortis, abbiamo una tassazione praticamente alta e, cosa ancora più spiacevole, alta per chi le tasse le deve pagare, perché abbiamo anche l'evasione più alta d'Europa. Esattamente. Per cui non solo è alta come aliquota, ma è particolarmente ingiusta perché per chi le tasse, diciamo, non può, cioè le deve pagare tutte perché ha ritenuta alla fonte, la tassazione è elevatissima. Poi abbiamo invece interi parti, corpi sociali che le tasse le pagano molto meno. Lei parla del sud, col sud sappiamo che il problema è anche di carattere statistico, cioè il nero è così alto, l'economia sommersa è così elevata che delle volte anche l'analisi statistica è un po' distorta, professor Fortis. Questo è indubbiamente vero, al punto che persino quelli che sono i parametri con cui noi ci presentiamo a Bruxelles, sì, probabilmente sono, sì, parametri del tutto campati per aria, mm-hmm, perché se si tenesse conto adeguatamente della vera dimensione del nostro prodotto interno lordo, anche il rapporto debito pubblico prodotto interno lordo, sì, dell'Italia sarebbe completamente da rivedere. A nostro vantaggio, va detto, perché avremo un PIL più alto e quindi potremmo reggere un deficit più alto, comunque il deficit in proporzione sembrerebbe più basso. Indubbiamente anche il giudizio delle agenzie di rating che ci sanzionano, certo, non appena spendiamo un po' di più a livello di debito pubblico, in questo momento ce ne sarebbe bisogno, ma purtroppo non si può fare perché ci sanzionano subito pesantemente, sarebbe tutta un'altra cosa se tutti pagassero le tasse e il sommerso si riducesse almeno a livelli fisiologici. Grazie a Marco Fortis, autore del volume La crisi mondiale e l'Italia, edizione Mulino. Grazie a voi, buonasera. Cercheremo di rispondere anche a qualche sms adesso che è arrivato, e poi la borsa ha chiuso in peggioramento Milano pochi minuti fa, meno 1,2 il MIB, 1,5 di calo l'S&P MIB, peggio ha fatto Francoforte, meno 1,80, Parigi 1,5% di calo. Avremo anche una breve scheda sull'andamento dei consumi interni, quello fotografato dalle vendite al dettaglio, e poi il danno economico del panico sulla febbre o l'influenza suina E poi la vicenda che ha visto il Comune di Milano perdere già ora 100 milioni di euro e poi indagati, truffa, 35 miliardi di prodotti derivati in giro per le amministrazioni locali italiane. 349-238-6666 per i vostri sms, confermo che è operativa l'IVA di cassa, perché oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi a chi ce lo chiede, che ha sentito la notizia in apertura, confermo che il dato e la notizia è corretta. Il decreto è stato pubblicato proprio oggi, quindi l'IVA non si pagherà più quando viene staccata la fattura dell'operazione, ma quando l'incasso viene effettuato realmente. ...17:38, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, commentiamo la borsa, poi parleremo anche delle vendite al dettaglio. Ripeto, ancora male, meno 3,1%, anche se su base annua è meno 0,7 mese su mese, anche se a marzo, lo fa sapere Centromarca, vi è un incremento per i cosiddetti grandi marchi, le grandi marche della distribuzione, un più 8%, che non è poca cosa assolutamente, ne stiamo parlando chiaramente di consumo di beni non durevoli, quindi non solo beni alimentari ma anche e soprattutto. Adesso però la borsa, perché flessione alla fine, chiude praticamente sui minimi non solo Milano ma tutta l'Europa, e nel frattempo Wall Street ha azzerato i guadagni. Eh sì, perché il Dow Jones adesso è invariato, il Nasdaq tiene ancora uno 0,2%, l'euro a quota 1,30 nei confronti del dollaro, Parigi ha perso l'1,7%, Francoforte l'1,9%, Londra l'1,6%, Milano ha perso l'1,4% sul MIB, l'1,7% sull'S&P. MIB, facciamo prima dire oggi chi è positivo: Eni più 1,5%, Geox più 0,90%, Parmalat più 0,4%, Popolare di Milano più 0,3%, come il Monte dei Paschi e UBI Banca. Tutto il resto invece ha chiuso con il segno meno, a partire da ST Microelectronics meno 4,7%, Mondadori meno 4%, il 4% lo perde anche Ansaldo STS, e il 3,80% il calo di Bulgari. Tenaris meno 3,7%, Snam meno 3,5% come Telecom e Intesa San Paolo, Buzzi Unice meno 3,3%, Mediaset meno 3%, Mediolanum meno 2,90% come Unicredito, Pirelli meno 2,70% come Lecire, il Banco Popolare e anche Fiat, che chiude a 7,83€. Eleonora Micheli, Radio Colle Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Di Fiat abbiamo parlato proprio in apertura con Mario Platero, insomma un po' di realizzi ci stanno, titolo a 7,80€. Abbiamo già detto che l'accordo dovrebbe essere concluso giovedì e soprattutto che sia arrivato un accordo anche con le banche. Restando in tema di banche, ma questa volta italiana, oggi sono tutte in flessione e parrebbe che qualcuno, c'è cioè qualche timore sugli stress test, cioè i test di carico, se fossimo in ingegneria, alle banche a cui si stanno sottoponendo le banche americane, cioè si va a immaginare la peggiore delle situazioni possibili, il peggiore scenario, e si va a vedere quanto reggerebbe la banca. Ecco, qualche preoccupazione questi test la stanno fornendo, Eleonora. Esatto, infatti il sottoindice europeo delle banche è stato uno dei peggiori, ha perso il 2,4% oggi. I risultati sui cosiddetti stress test americani verranno resi noti lunedì. D'altra parte in America iniziano a circolare le prime indiscrezioni e in base alla stampa appunto americana pare che le autorità abbiano puntato l'indice sulla patrimonializzazione di Citibank e di Bank of America, e questo appunto ha provocato un certo nervosismo sui mercati europei e in America. Per questo vanno male tutte le banche, anche se sul finale proprio a Piazza Affari hanno recuperato proprio nelle ultime battute le azioni del Monte dei Paschi più 0,25% e poi anche quelle della Popolare di Milano più 0,35%. Ricordiamo che erano andate bene ieri, festeggiando diciamo il fatto che è stato nominato il presidente Ponzellini e si è quindi posto fine alla lotta interna che c'era stata per la corsa alla poltrona della presidenza. Sì, alcuni di voi dicono perché sui minimi, sì, sui minimi da quando aveva fatto recupero nel pomeriggio, chiaramente questa mattina come vi abbiamo raccontato la borsa soffriva anche di più, aveva recuperato parecchio, poi nell'ultima mezz'ora invece è tornata a perdere almeno mezzo punto in più. Questo per quello che riguarda la borsa di Milano, ma non solo. Ricordavi gli stress test americani e gli effetti sulle banche europee. C'è anche un altro elemento che viene citato, io non so quanto in maniera propria o impropria, i timori dell'influenza suina, il rischio psicosi. Dunque, ieri abbiamo visto Autogrill perdere parecchio in maniera del tutto ingiustificata, lo ripetiamo, ne parleremo anche fra poco, non si prende mangiando il maiale. Oggi Autogrill tiene insomma, perde lo 0,80%. Su quali altri settori si sono concentrati questi dubbi? Ma guarda, in generale si può dire che è stato anche un pretesto per prendere profitto. Parlando con i trader c'era chi notava che tutto sommato Piazza Affari, ma anche le borse europee salgono da ben 7 settimane, a parte qualche battuta d'arresto ovviamente. Quindi ovviamente in un momento di incertezza si porta a casa i guadagni realizzati, peraltro in un arco di tempo abbastanza limitato. Si vanno a vendere i titoli dove c'è maggior guadagno, dove magari si ha qualche dubbio, come Autogrill, che come hai ricordato tu ieri è andata molto male e oggi invece ha arginato le perdite allo 0,87%, visto che una banca d'affari, Chevret, ha rammentato che l'azienda va bene, che ha tutte le carte in regola, tra l'altro per affrontare anche l'eventualità che ci sia un eventuale calo del turismo e diciamo dei passeggeri negli aeroporti americani, dove è molto presente. Sì, però adesso ne parleremo, insomma. Ecco, mi piace quando tu dici è stato più che altro un pretesto. Parliamo di pretesti. Alcuni di voi ci chiedono, per inciso, il nome di ripetere il nome del libro di Marco Fortis. Ve lo diamo, visto che ogni tanto diamo anche queste informazioni, portiamo libri in trasmissione. La casa editrice è Il Mulino, il libro si chiama La crisi mondiale e l'Italia. Torniamo invece ai mercati ancora per un paio di commenti. Steam Microelectronics, giovedì escono i dati. Esatto, giovedì mattina. Ma nel titolo, meno 4,70. C'è grande attenzione, infatti molto nervosismo. D'altra parte va detto che oggi è andato un po' male tutto il comparto della tecnologia. Mm-hmm. Sicuramente ST è andata peggio, meno 4,7%, nell'attesa appunto dei dati che saranno resi noti nella notte, in verità di mercoledì, e quindi giovedì mattina all'alba in Italia. Ancora due notizie sul mercato, anzi su un titolo, RCS, l'amministratore delegato Antonio Pericone ha detto non serve l'aumento di capitale, anche se poi il presidente di RCS a tema dell'assemblea, e quindi Pier Gaetano Marchetti, ha detto non siamo certi in un momento in cui le transazioni sul mercato trovano le condizioni migliori. Altri titoli che volete sapere, chi ha perso tra l'1 e il 2%, ve li diamo, oltre a Fiat e CIR, l'abbiamo detti, negative anche Prismian, Luxottica, Fondiaria, Alleanza, con cali superiori al 2%, Unipol, Impregilo, Generali, Terna, Finmeccanica, Lottomatica, Saipem, ed Enel e Atlantia, cali tra l'1 e l'1,8%. Grazie, Leonora Michele, Radio Corriere sulle 24 ore. Allora, che cosa sta capitando? Degli sviluppi dell'influenza suina e sugli sviluppi avete già sentito dai nostri GR, 152 vittime in Messico, anche aumentate, aumentano i casi da contagio, quarto caso in Europa, esami in corso in Danimarca, Svezia, Repubblica Ceca, Irlanda, Germania, Grecia. In Italia test tutti negativi, il numero verde è il 1500. L'Unione Europea ha deciso di chiamare la malattia nuova influenza per non dare un'idea sbagliata nei confronti della carne di maiale, perché sennò se la chiami influenza suina sembra che l'attacchi la carne di maiale e i maiali stessi. Prime segnalazioni anche in Asia, nonostante le rassicurazioni, leggo un'agenzia battuta poco fa, in sostanza Cina, Ucraina, Kazakistan, Filippine, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti hanno messo al bando la carne di maiale proveniente da alcuni stati americani. Secca la replica americana che dice attenzione, questo bando non ha fondamenti scientifici e rischia di danneggiare gravemente i commerci. E questo che temiamo anche noi, o meglio cerchiamo di capire se si stia già verificando un danno nella produzione italiana di suini. Siamo in collegamento con il presidente della Confagricoltura Federico Vecchioni, buonasera. Buonasera a voi. Allora, l'Italia ha oltre 5.000 allevamenti di suini, 9 milioni di capi, una produzione che vale 2 miliardi e mezzo di euro, e un valore al consumo di carne e salumi, made in Italy stiamo parlando, di 15 miliardi e passa di euro. Tra l'altro, ovvio che i prosciutti italiani, che sono 13 milioni, altri 56 milioni arrivano dall'estero. Per il comparto carni suini fresche noi abbiamo anche una domanda che è bella in crescita, più 3,5%. Che cosa accadde nel passato? Non tanto la mucca pazza, dove vi fu invece un problema vero anche di consumo di carne proveniente dalla Gran Bretagna, ma nel caso dell'aviaria 2005, il panico, e parlo di panico perché lo dicevo più volte, occorreva venire in contatto con le feci delle anatre che volavano dalla Cina verso l'Europa e i capannoni delle nostre aziende, appunto essendo capannoni, i polli in batteria stavano al chiuso, non ci fu niente da fare, 500 milioni di euro di danno stimato, calo immediato dei consumi del 70%. Allora, Presidente Vecchioni, chiariamo subito una cosa. Anche quando leggo assicurazioni che dicono ma non vi preoccupate, l'Italia non importa carne fresca, congelata o suini vivi dal Messico da almeno 10 anni, secondo me è fuorviante anche questa informazione, perché sembra dire noi siamo al sicuro perché non importiamo carne di maiale dal Messico, ma in realtà, da quello che ho capito io, il contagio non avviene comunque attraverso il consumo di carne. È assolutamente vero, il comunicato stampa di oggi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità chiarisce bene che l'epidemia è un'epidemia umana, non è legata al consumo di carne suina e quindi anche eventuali riferimenti, come lei ricordava, all'origine sicura delle carni rischiano di essere fuorvianti e di dare un'informazione controproducente ai consumatori. Il dato della trasmissione che non è legata al consumo è il dato più rilevante al fine di non creare un ingiustificato allarmismo. A questo noi possiamo certamente aggiungere quello che veniva ricordato, cioè che le modalità produttive europee e nazionali sono modalità produttive assolutamente in grado di, come hanno fatto fino ad oggi, garantire il consumatore italiano al 100%, quindi sotto questo profilo possiamo assicurare che la filiera suinicola italiana è una filiera che al momento in cui ci troviamo, peraltro caratterizzata da una contrazione di prezzi precedente a questa ulteriore emergenza, è una filiera che però ha dei numeri importanti e che è in grado in questo momento di poter continuare a dare al consumatore quello che ha dato fino ad oggi e quindi esclusivamente qualità. Lei già accennava ai prezzi, perché il settore della carne suina sta già attraversando un periodo difficile quanto a prezzi. Quanto ha perso il mercato come valore negli ultimi 4 mesi, quindi ben prima che scoppiasse qualunque tipo di allarme sulla febbre suina, l'influenza suina? Ma il mercato era già in una significativa sofferenza dovuto a un abbassamento dei prezzi all'origine di oltre il 30%. Tutto questo ha determinato, soprattutto sotto profilo della produzione nazionale e della tenuta, diciamo, appunto della filiera nazionale, una fonte di preoccupazione, tenuto conto anche del valore rilevante che la filiera ha in termini di indotto. Certo è che in questo senso quello che noi riteniamo debba essere preso in considerazione è che i grandi marchi di cui si fregge il nostro Made in Italy debbano essere considerati il punto di riferimento più significativo per il consumatore, perché dietro quei marchi c'è una produzione nazionale che è in grado, come abbiamo più volte sottolineato, di offrire in termini qualitativi il risultato migliore per qualsivoglia consumatore. Ecco, una buona notizia in un mercato che appunto ha perso il 30% scusatemi, del suo valore negli ultimi 4 mesi. La buona notizia è che, da quello che voi vedete, però vorrei che lei ce lo confermasse, il prezzo di mercato, le quotazioni di carne suina in questo momento, cioè tra ieri e oggi, non sono crollate e non hanno subito cali significativi, è così? Sì, fortunatamente è così. Il problema è che il non calo rispetto ai riferimenti che abbiamo avuto fino ad oggi non fa che confermare che la contrazione che abbiamo avuto negli ultimi mesi purtroppo è assolutamente stabilizzata. È una contrazione che mina pesantemente la competitività del nostro sistema e che anche sotto il profilo diciamo dell'indebolimento non fa che preoccupare, tenuto conto che le importazioni di cui l'Italia dalle quali è caratterizzato il nostro paese sono importazioni comunitarie e quindi con paesi vicini molto concorrenziali che però guardano al mercato interno italiano con grande interesse. Da qui la necessità appunto di far sì che questa ulteriore emergenza non mini ulteriormente, peraltro in maniera in questo senso non giustificata, una produzione nazionale i cui numeri che lei prima ricordava sono molto chiari in un momento in cui l'economia ha bisogno di iniziative positive e non di ulteriore contrazione. Sì, però diciamo che perlomeno, cioè, voglio dire, bisogna guardare anche la parte piena del bicchiere. Questi cali erano già avvenuti nel passato per altre variabili, con consumi, prezzi e chiaramente effetto anche della crisi economica. In questo momento voi non registrate un calo nel mercato all'ingrosso del prezzo del suino? Al momento no. Beh, speriamo appunto che si mantenga così la situazione. Noi l'abbiamo detto ieri, l'ultima cosa che vogliamo è il rischio psicosi e poi, mi raccomando, attenzione, da quello che ha chiarito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il contagio è per via umana e assomiglia, lo abbiamo detto in tutti i modi, le salse possibili, al classico contagio influenzale, per cui nulla c'entra quello che uno mangia. Io non so più come ripeterlo, speriamo che serva. Grazie intanto al presidente della Confagricoltura Federico Vecchioni. Grazie a voi. E adesso c'è il nostro GR, poi invece parleremo di un danno, quello sì, già portato a casa, e mi riferisco al Comune di Milano. Sequestro per 340 milioni di euro a quattro colossi bancari, truffa con danno appunto già registrato per 100 milioni al Comune di Milano, e poi tutta la storia di un contratto derivato che ha visto scattare anche alcuni avvisi di garanzia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso ci occupiamo di alcuni dati usciti sull'economia italiana e poi della vicenda del Comune di Milano, dei 100 milioni di euro di danno, di truffa già portati a casa. Comunque, andiamo con ordine. Al 349-238-6666 sono arrivati alcuni sms a cui cercherò anche di rispondere. Per quello che riguarda le notizie in breve di questa giornata, riepiloghiamole velocemente. Abbiamo aperto il programma con l'accordo tra il Tesoro americano e i creditori di Chrysler e quindi le banche, accordo che a questo punto spiana la firma definitiva dell'operazione Fiat Chrysler, tant'è che il presidente John Elkann, presidente Xor, ha detto attenzione, l'accordo, la firma con Chrysler si chiuderà giovedì sera. L'intesa prevederebbe per il lingotto un'eventuale quota fino al 35%, al sindacato americano il 55% della Chrysler ristrutturata, a fronte poi di un 10% che verrebbe dato al governo americano e ai creditori garantiti. Il sindacato dei lavoratori dovrebbe anche ottenere una rappresentanza nel consiglio di amministrazione della casa automobilistica. L'intesa poi prevederebbe anche la creazione di 4.000 posti di lavoro fra i lavoratori aderenti al sindacato, la produzione nei quattro stabilimenti americani anche di un'auto piccola targata Fiat, mentre da quello che si è capito lo stabilimento canadese della Chrysler potrebbe essere riconvertito in produzione di Alfa Romeo, però vedremo poi da giovedì sera i dettagli dell'accordo. Nel frattempo, sempre settore auto, forte calo nei risultati di Daimler, 1 miliardo e 290 milioni di perdite nei primi tre mesi di quest'anno contro 1 miliardo e 330 milioni di guadagni, di profitti nei primi tre mesi del 2008, perdite quelle registrate doppie rispetto alle stime, e Daimler stima anche un calo significativo di tutti i ricavi nel 2009. L'Honda ha avuto invece Honda Motor meno 77% nell'utile netto e meno 17% quasi nelle vendite. Buona la notizia invece che arriva dagli Stati Uniti e riguarda la fiducia dei consumatori. Ad aprile è balzata a 39,2 punti maggior rialzo come scarto, visto che si veniva dai 27 punti del mese di marzo, dal novembre del 2005, e comunque una fiducia che è aumentata ben più delle attese. In recupero anche la fiducia nelle imprese italiane, lo ha rilevato oggi l'ISAE, ma si attende un calo, le imprese si attendono un calo negli investimenti. E sempre in tema di imprese, ma questa volta le piccole società e i lavoratori autonomi, il decreto è legge, il decreto che introduce l'IVA di cassa, pubblicato oggi, e la norma scatta già sull'operazione effettuata a partire da oggi. In pratica l'IVA non si pagherà più quando viene staccata la fattura dell'operazione, ma quando l'incasso viene effettivamente e realmente effettuato. Il pagamento comunque deve avvenire entro un anno. Sempre sul fronte delle imprese italiane e dei consumi, in questo caso interni, abbiamo visto, lo commentavamo prima in apertura con Marco Fortis, con l'economista Marco Fortis, un saldo positivo nella bilancia commerciale, perché le importazioni a marzo sono calate più delle nostre esportazioni, invece sono ancora in frenata le vendite al dettaglio, meno 3% il dato di febbraio, però meno 3% su base anno, meno 0,7% sul gennaio del 2009. Il calo quindi torna e riporta i livelli a quelli del giugno 2008. Che cosa è calato di più? Ce lo racconta questa scheda. Cinghia degli italiani ben tirata a febbraio sul fronte della spesa. Il risparmio infatti ha toccato tutte le tipologie di prodotti, facendo tornare il valore degli acquisti al giugno 2008. Se gli alimentari hanno accusato un calo dell'1% rispetto all'anno prima, ancor più pesante la contrazione negli acquisti di prodotti non alimentari, meno 4,1%. Ma a cosa hanno rinunciato gli italiani davanti a scaffali e bancarelle? A febbraio le diminuzioni maggiori rispetto a 12 mesi prima hanno riguardato in particolare supporti magnetici e strumenti musicali, meno 8%, prodotti farmaceutici, utensileria per la casa e ferramenta, con flessioni superiori al 5%. Intorno a questa soglia è stata poi la contrazione del valore delle vendite, sempre senza contare l'inflazione, di abbigliamento, libri e giornali, e in misura leggermente inferiore, di accessori per la fotografia. Freno tirato anche per mobile, tessile e arredamento, meno 4,2%, mentre limitato al meno 0,6% il calo di prodotti informatici e telefonia. E con i cordoni della borsa ben stretti, a farne le conseguenze a febbraio sono stati innanzitutto i piccoli negozi, con il valore delle vendite scivolato del 6,1% rispetto all'anno prima. E un occhio rivolto alla convenienza al momento di fare la spesa ha significato sempre più scegliere la grande distribuzione, il cui valore delle vendite a febbraio è cresciuto dell'1,2%, con discount e ipermercati a fare da traino. Questo è il dato complessivo. Segnaliamo però che secondo un comunicato diffuso da Centromarca, che unisce le grandi marche del paese, le vendite dei beni di consumo delle grandi marche a marzo hanno segnato un più 8% rispetto a un anno prima, e quindi qualche segnale di ripresa c'è, a partire perlomeno dai grandi marchi. Rapidamente sulle banche, ci chiedete, gli stress test hanno influenzato la borsa, i timori che soprattutto Bank of America e Citigroup possono avere bisogno di più capitale, l'ho scritto oggi il Wall Street Journal, come conseguenza dei risultati di questi test di carico, si direbbe in altro gergo, immaginando come reagirebbero le banche nella peggiore delle situazioni possibili. Ricordo che sia Bank of America che Citigroup complessivamente hanno ricevuto già fondi pubblici americani di emergenza per 45 miliardi di dollari ognuna, e la banca centrale americana, la Federal Reserve, già la scorsa settimana ha detto che tutte le 19 banche sottoposte a questi stress, a questi test di tenuta, avranno bisogno di rafforzare le proprie riserve patrimoniali. I risultati definitivi però li avremo solo il 4 maggio. Bene invece Deutsche Bank, che è tornata all'utile e ha superato le stime. L'utile netto di quella che è la prima banca tedesca è stato pari infatti nei primi tre mesi dell'anno a 1 miliardo e 190 milioni di euro. In questo modo Deutsche Bank esce dal rosso in cui era precipitata già dal 2008 con il primo bilancio dalla seconda guerra mondiale in perdita, 3 miliardi e 900 milioni di euro. Invece profitti in calo del 36% per il Banco di Bilbao Vizcaya a 1 miliardo e 240 milioni. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi restiamo in tema di banche, ma e nel caso specifico UBS, Deutsche Bank, JP Morgan, Depfa Bank, perché sono scattate le indagini della magistratura. 14 tra manager e funzionari delle quattro banche indagate, sequestrati agli istituti quasi 400 milioni di euro, il tutto per una vicenda che data 2005, quando l'allora sindaco di Milano Albertini annunciò l'emissione di un'obbligazione, di un prestito obbligazionario da 1 miliardo e 700 milioni di euro, la più grande nella storia europea. Oh mia bella Madonnina, cantava la canzone, e invece qua parliamo di Madonnina Bond, 1 miliardo e 700 milioni di euro di obbligazioni, di prestito, che il Comune di Milano ha richiesto, ha emesso nel giugno del 2005. Con la soddisfazione dell'allora sindaco di Milano Albertini, che dichiarò: grazie a queste obbligazioni avremo 100 milioni in più quest'anno, cioè nel 2005, altri 30 milioni sia nel 2006 che nel 2007. Si è saputo che adesso la Procura di Milano ha indagato 14 tra manager e funzionari di quattro banche: UBS, Deutsche Bank, JP Morgan e Depfa Bank. Non sono gli unici a essere indagati. Comunque è autorizzato giovedì scorso dal GIP Giuseppe Vanore il sequestro preventivo alle quattro banche di complessivamente oltre 340 milioni di euro, cioè che dice quasi 400 milioni. Claudio Gatti ne ha scritto oggi per il Sole 24 Ore. Buonasera Claudio. Buonasera a voi. La vicenda: il Comune di Milano emette un prestito, sappiamo che insomma è una cosa che avviene spesso nelle amministrazioni locali, tra l'altro sono 35 miliardi, se non ricordo male, in giro le obbligazioni emesse dai nostri enti locali. Qui però non è un problema di mercato finanziario, di credit crunch, di difficoltà ad ottenere prestiti. Che cosa, su quale episodio si è mossa la magistratura? La magistratura ha trovato evidenza di una vera e propria truffa. La cosa più significativa è che questa costruzione giudiziaria può essere applicata anche alle altre obbligazioni al di là di quella di Milano. Per quello che riguarda il Comune di Milano, il Comune si era trovato all'inizio del 2005 in difficoltà, si trovava a dover pagare a giugno di quell'anno circa 100 milioni di rimborso di mutui aperti che aveva, per lo più cassa depositi e prestiti. Si è trovata un'offerta sul tavolo che sembrava troppo bella per essere vera, e cioè vi costruiamo, facciamo un'emissione obbligazionaria con dietro un'operazione estremamente complicata e difficile da capire, con una serie di swap che poi sono stati ripetutamente ristrutturati, riaperti e richiusi, e voi avreste risparmiato i famosi 100 milioni di cui appunto parlò il sindaco Albertini, e altri soldi, e poi prolungato il debito perché era un'emissione a 30 anni. Dietro a questa costruzione c'erano in realtà dei profitti taciuti e non dichiarati che rendevano l'operazione illegale, oltre che decisamente rischiosa, non redditizia per il Comune. Certo. Allora, qui stiamo parlando, ripeto, non di uno strumento finanziario più o meno rischioso che ha un problema sul mercato per cui perde buona parte del suo valore, come molti derivati in questo periodo, altri prodotti molto strutturati, definiti poi tossici, ma stiamo parlando di truffa e frode. Cioè, da quello che tu hai scritto oggi, io ho capito che il Comune di Milano ci ha già rimesso 100 milioni di euro, ho capito bene? Esatto, secondo i consulenti della procura e la procura stessa, l'operazione al momento della sua stipula del contratto era già chiusa con un costo non dichiarato di oltre 50 milioni di euro, che non avevano nulla a che vedere con il cosiddetto mark to market, cioè che è il valore di mercato del prodotto derivato che è sul mercato finché è sul mercato il bond, cioè per fino al 2035. E questa perdita è ipotizzabile che il Comune riesca a recuperarla o no, una volta che venisse confermata Sì. Se viene confermato il fatto che la costruzione dell'ipotesi del sostituto procuratore Robledo, che si tratta di una truffa, assolutamente sì, essendo una truffa si può chiedere di avere i soldi indietro, chiaramente. I soldi indietro. Ecco, tu hai chiarito però anche che se fosse stato presente questo guadagno da 100 milioni di euro, questa frode, il Comune probabilmente non l'avrebbe firmato, ma non avrebbe sottoscritto un'obbligazione che poi portava a un costo così alto, un danno così alto, una perdita così alta, ma da un punto di vista della legge non avrebbe nemmeno potuto farlo. Non l'avrebbe potuto fare perché c'è una legge che è la finanziaria del 2001 che proprio per evitare che enti territoriali siglino accordi e sottoscrivano operazioni complicate che non capiscono, dice che una ristrutturazione del debito può essere fatta da un ente territoriale soltanto se c'è una convenienza economica, cioè se il costo del debito dopo l'operazione è inferiore a quello precedente. Altrimenti troveremmo, diciamo così, uffici tecnici comunali, provinciali e regionali improvvisarsi, diciamo, broker dei derivati, cosa che alcuni hanno già fatto, dopodiché i danni ne hanno fatti anche i broker professionisti. Ultima domanda che ho per te, Claudio Gatti, è però questa: se il Comune è vittima di una frode, di una truffa da almeno 100 milioni di euro, perché ci sono degli indagati anche nel Comune di Milano, e cioè l'ex direttore, o meglio, ex dipendente del Comune di Milano, l'ex direttore generale del Comune Giorgio Porta e Mario Mauri, allora componente tecnico della Commissione Comunale, che strutturò l'operazione? Perché la Procura ha raccolto evidenze e testimonianze di persone che hanno partecipato all'operazione per conto del Comune, che hanno detto che c'era consapevolezza da parte non solo delle banche, ma anche di quelle persone, in particolare Porta, che sono adesso indagate, del fatto che c'era una parte del costo di ristrutturazione del vecchio debito che non era stata calcolata, inclusa nei calcoli, per far sì che non risultasse il costo superiore a quello precedente all'operazione, e quindi in pratica per mascherare la cosa, e quindi si parla di una possibile complicità di due funzionari chiave. Tra l'altro è anche emerso dalle testimonianze raccolte dalla Procura che il direttore centrale del settore ragioneria e finanza, che è quello che firmò il contratto, era una persona che ha dichiarato di non parlare inglese e non caper nulla di derivati. Vero. No, non male. Non che chi parla inglese e dicesse di capirne abbia commesso meno danni, però insomma. Va bene, si fa per dire. Allora, la richiesta di sequestro da 340 o quasi 400 milioni di euro fa riferimento a una lettera in cui le quattro banche, a firma di Tommaso Zibordi per Deutsche Bank, Gaetano Bassolino per UBS, che per inciso è il figlio del governatore della Campania Bassolino, Antonia Crenza e Fulvio Molvetti per JP Morgan, sostenevano che questa ristrutturazione sarebbe stata vantaggiosa, e poi questa convenienza economica è stata poi ribadita in una lettera del 23, anzi in altre dichiarazioni del 23, del 24 e del 30 giugno. Ti chiedo, sempre 2005, ti chiedo una cosa per concludere. Quando tu dici che questa inchiesta potrebbe diventare quasi il paradigma per altre vicende, e per complessivamente quella montare di 35 miliardi di prestiti obbligazionari richiesti dalle amministrazioni comunali italiane, a che cosa fai riferimento? Al fatto che il procuratore Robledo ha messo in evidenza un aspetto che nessuno aveva notato prima, cioè che nel calcolo della convenienza economica che gli enti territoriali di solito applicavano a questa operazione, veniva paragonato il costo dei mutui precedenti alle emissioni e il costo del bond. In realtà il bond era seguito sempre, aveva sempre a valle delle operazioni di derivati di swap. Se si fossero tenuti conto i costi di quelle operazioni, molte di queste cose non sarebbero state possibili, non sarebbero state legali, come nel caso di Milano. Cioè, da come la capisco io, tutte queste operazioni, o molte di queste operazioni in cui i comuni hanno avuto prestiti mettendo obbligazioni, sono state possibili perché si diceva, vedete, il mutuo ci costa, non so, 5, questa operazione ci costa meno o comunque non ci costa più di un mutuo. 4,9, per cui la possiamo fare. Se invece si fosse tenuto conto del fatto che per essere un costo così basso, queste operazioni in carico avevano anche scommesse su derivati che nel caso negativo avrebbero potuto ampliare notevolmente le perdite, queste operazioni, molte di queste operazioni non si sarebbero legalmente potute fare, ho capito bene? Non solo, perché non aveva legato a possibili perdite dovute al mercato, c'erano proprio i costi impliciti swap, come nel caso di Milano, che erano sicuri. Già previsti, certi. Quindi, certo, esatto. hai ragione. Non solo il costo di un eventuale ribasso del mercato, ma costi già certi che venivano però di fatto nascosti o non ignorati o non palesati. Grazie, e vedremo poi che sviluppi avrà questa inchiesta. Grazie a Claudio Gatti, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Focus Economia.